Mentre la questione della censura occupava in modo esclusivo la massa degli oppositori, i loro capi non si limitavano a questa manifestazione, ma già cercavano di trasportare la lotta su un nuovo terreno. Così procedono sempre i pionieri politici e coloro che regolano la propria marcia sui loro movimenti li tacciano talvolta di temerità e di precipitazione, mentre dovrebbero riconoscere che senza questi capi audaci mai farebbero un passo verso orizzonti nuovi. I popoli dimenticano troppo spesso che non si può essere insieme la guida e il guardiano, la luce del faro e la fiamma del focolare. Nel momento stesso in cui Venezia compatta, consiglio municipale in testa, chiedeva a gran voce l'applicazione della legge sulla censura, Tomaseo e Manin misero avanti le promesse del 1815, parlarono dell'indipendenza promessa dall'Austria e garantita dalle altre potenze. Alcuni giovani si unirono a loro. Venezia vide comparire un gran numero di scritti di ogni genere, lettere, istanze, progetti, di indirizzi sul problema dell'indipendenza. L'opposizione all'Austria si rivelava in un nuovo e più temibile aspetto. Le promesse del 1815 non erano state fatte soltanto ai capi del partito, chiamato quell'epoca il Partito Liberale, che invocava il protettorato dell'Austria unicamente in odio alla Francia. Erano state fatte ai rappresentanti di tutti i sovrani d'Europa e inserite con ponderata decisione in trattati ufficiali. Il popolo veneziano aveva tuttavia ignorato per lungo tempo quale fosse il vero carattere, quale la portata di quelle promesse. La propaganda austriaca nulla aveva trascurato per persuadere i Lombardo-Veneti che i diritti dell'impero sul loro regno avevano la loro fonte e la loro sanzione nella conquista. Essa presentava la dominazione francese come un accidente, come una tempesta passeggera dopo la quale tutto era tornato nel suo stato normale. A sentirla, le province lombarde e venete appartenevano da tempo immemorabile alla casa di Asburgo. Era dunque importante per l'Austria che non fosse divulgata la storia dei patti stipulati con gli inviati dei Lombardo-Veneti dinanzi ai rappresentanti delle potenze alleate. La semplice esistenza di questi patti bastava, in effetti, a distruggere tutte le pretese dell'Austria, perché mai fare e accordare condizioni quando si è titolari di diritti imprescrittibili? Perché comperare con concessioni quello che si possiede già? Far sapere ai veneziani che la causa della loro indipendenza coincideva con quella del diritto equivaleva a scuotere profondamente la potenza austriaca, dato che significava toglierle agli occhi dei più timorati il prestigio residuo. Quando le popolazioni appresero che la cessione del regno lombardo-veneto all'Austria non era stata fatta se non a determinate condizioni che l'Austria non aveva mai rispettato, si aprì dinanzi a loro un nuovo orizzonte e coloro che si erano ritenuti per tanto tempo condannati alla schiavitù da una legge misteriosa si sentirono di colpo innalzati allo stesso rango dei loro padroni. L'influsso di queste accese discussioni sullo spirito delle popolazioni del Veneto si rivelò ben presto in un episodio significativo. Circostanze in sé prive di rilievo misero di fronte gli abitanti di Treviso e la forza armata. Lo stato degli animi era tale che una dimostrazione ostile doveva portare necessariamente all'effusione del sangue. Il popolo e i soldati si guardarono e tanto bastò. Si incrociarono le baionette, fu lanciato qualche sasso, partirono parecchi colpi, caddero alcuni cittadini, ma caddero anche alcuni soldati e la lotta durò fino a sera. Non appena si diffuse la notizia di questo increscioso scontro, Tommaseo rivolse a tutti i vescovi delle città venete una lettera circolare, invitandoli a interporsi tra il potere e le popolazioni. Ma la lettera non era ancora stata spedita, che già Tommaseo e Manin venivano arrestati e condotti in carcere. Si compì il 18 gennaio 1848 questo atto arbitrario, con il favore di uno spiegamento considerevole di forze. 2 mesi dopo Venezia insorgeva contro l'Austria. Questi 2 mesi erano stati impiegati dai liberali veneziani nella preparazione di un moto le cui conseguenze, accelerate dalla rivoluzione di febbraio, superarono di molto le loro previsioni. Con l'arresto di Tomaseo e Manin, il tempo della resistenza legale era finito. Ci si avviava a una lotta più aspra e tutto fu predisposto a questo scopo. Il popolo ebbe i suoi capi, un suo governo occulto, una sua disciplina, 10 o 12 uomini distribuiti nei vari sestieri si dedicavano esclusivamente a illuminare, a dirigere i loro concittadini. Questi uomini, riuniti in comitato centrale, presto esercitarono sull'intera popolazione un'autorità sovrana. La più piccola determinazione del comitato centrale era trasmessa in pochi minuti sino ai punti più remoti della città. E per bizzarra che fosse, era eseguita fedelmente. Sebbene puerili in apparenza, certe dimostrazioni assumevano un carattere più grave per l'unanimità evidente che le contraddistingueva. Se il governatore una domenica andava a passeggiare in un luogo pubblico di solito affollato, la domenica seguente quel posto era disertato e la città intera si dava appuntamento in un'altra zona sino allora non frequentata. Se in una sala di spettacoli comparivano ufficiali austriaci, la gente si eclissava subito, quasi ubbidendo a un segnale misterioso, e la sala rimaneva vuota. Alcune dame veneziane ricevevano ancora austriaci nei loro salotti e andavano ai balli del governatore. Rime ingiuriose e lettere anonime le perseguitavano senza fine, e persino in strada le accoglievano implacabili lazzi. Queste scene strane potevano essere giudicate un preludio un po' grottesco a una rivoluzione, ma l'amaro non tardò a prendere il posto di quella gaiezza e un accordo così perfetto, ottenuto con mezzi pressoché inesplicabili, non mancava di impensierire seriamente le autorità austriache. La tensione degli animi era grande quando arrivò a Venezia, il 17 marzo 1848, la notizia della rivoluzione di Vienna e della Costituzione accordata dall'imperatore d'Austria a tutti i suoi sudditi. La sera stessa in teatro, il governatore Palfi annunciò solennemente questa notizia. Una voce fece risuonare allora il grido: «Viva Ferdinando, re costituzionale! Viva l'Italia!» rispose la folla. La questione era posta con nettezza da questi due gridi. Già il mattino dopo, il popolo si addensò in piazza San Marco, sulla riva degli Schiavoni e nelle strade vicine. Chiedeva che si mettessero in libertà Manin e Tommaseo. Presto la folla crebbe, minacciosa, e si poté comprendere che era risoluta a usare la forza per liberare i prigionieri. Braccia possenti scossero le porte massicce di quelle prigioni secolari in cui sono perite tante vittime. L'urto dei demolitori, al grido «Viva Manin, viva Tomaseo!», abbatté il portone. La prigione era aperta. Il popolo, irritato dalla resistenza, esaltato dal successo, irruppe nel labirinto dei corridoi. Non dovette cercare a lungo i prigionieri, che i carcerieri tremanti supplicavano di mostrarsi per calmare e sedare la folla ebbra del suo trionfo. Appena scorti Manin e Tomaseo furono portati in piazza a San Marco e messi su un podio, da cui rivolsero al popolo qualche parola accolta da entusiastici applausi. Così terminò questa prima giornata della rivoluzione veneziana. Il popolo aveva ritrovato i suoi capi e si fermava, pago di aver preluso alla lotta con una vittoria, ma risoluto ad andare avanti. 2 giorni passarono senza che la Costituzione fosse stata resa pubblica o almeno comunicata alle autorità municipali. Gli uomini che avevano diretto l'agitazione pacifica a Venezia si chiedevano che cosa dovessero fare per continuare l'azione intrapresa e portarla a buon fine. Gli ostacoli che si potevano incontrare nell'autorità austriaca erano davvero temibili. È il momento di dire qualcosa dei 3 uomini che impersonavano a Venezia la potenza dell'Austria: il governatore conte Palfi, il generale conte Zichy, comandante militare, e il colonnello Marinovic, governatore dell'arsenale e capo della marina. Era quest'ultimo, va detto subito, a portare in qualche modo personalmente tutto il fardello dell'impopolarità che si legava al nome e agli atti dell'Austria. Già ufficiale di ordinanza dell'ammiraglio Paolucci, Marinovic era stato promosso comandante in seconda della Marina veneziana, sotto la supremazia nominale dell'arciduca Federico. Tristi e fosche storie correvano a Venezia sui rapporti tra Marinovic e quel principe, la cui morte prematura aveva molto scosso la popolazione. Anche se arciduca e anche se austriaco, l'ammiraglio Federico si era saputo conquistare la simpatia dei veneziani. Era molto giovane e sembrava molto infelice. Si parlava vagamente del suo amore per la figlia di un semplice conte e della collera della corte di Vienna che non soltanto si era opposta al matrimonio del principe, ma l'aveva anche costretto a pronunciare i voti dei cavalieri di Malta. Si diceva pure che Marinovic era stato messo al fianco dell'arciduca più come guardiano che come consigliere. Si aggiungeva che egli aveva assolto fin troppo bene la sua trista missione. Nel fatto, ridotto a vivere sorvegliato da quell'inflessibile carceriere, il principe si era ben presto accasciato sotto il peso di una malattia di petto che faceva temere per la sua vita. Il suo medico aveva allora scritto a Vienna, sollecitando per lui una diversa residenza, ma era troppo tardi. L'arciduca era già morto quando giunse la risposta imperiale. Era morto a 20 anni. Dal giorno della sua prima pena a quello della sua agonia erano trascorsi soltanto 6 mesi. Si avvolsero i resti del giovane principe nell'oro e nella seta, si pronunciarono sulla sua tomba discorsi enfatici in cui si collocava l'estinto al di sopra dei più grandi marinai e dei più arditi navigatori. Ma il popolo non si lasciò ingannare da quelle pompose testimonianze del dolore ufficiale. Quel pallido e silenzioso giovane, così rapidamente strappato alla vita, aveva visto, con quell'istinto poetico che gli è proprio, un cuore tenero, le cui aspirazioni, forse generose, erano state sacrificate agli angusti pregiudizi di corte, e aveva pianto la giovane vittima che, messa sotto la guardia dell'inflessibile Marinovic, non aveva saputo lottare, ma aveva fuggito la vita come si fugge la sofferenza. La morte del giovane arciduca lasciava al colonnello Marinovic il comando della Marina veneziana. In quel posto elevato, Marinovic si distinse soltanto per la sua rudezza intrattabile. Il popolo detestava quell'uomo che riteneva responsabile della morte prematura dell'arciduca. Un provvedimento preso da Marinovic, dettato da uno zelo di economia che in lui era spinto sino all'avarizia, finì di alienargli la popolazione. Il colonnello fece entrare nell'arsenale i forzati perché lavorassero accanto agli operai, i quali avevano ereditato dai loro padri e dai loro avi il privilegio dell'accesso ai cantieri della marina. Quest'ultimo motivo di risentimento aveva portato all'esasperazione l'odio popolare di cui Marinovic era oggetto. Il governatore, conte Palfi, non era circondato dallo stesso disamore. Di famiglia ungherese, legata alla casa d'Austria, il conte era un sincero sostenitore del potere assoluto, ma era pure nemico, altrettanto dichiarato, delle maniere violente e dei provvedimenti di forza. La contessa, donna molto pia, teneva senza sforzo il marito sulla via di una politica conciliante. Venezia non era dunque seriamente minacciata da questo lato, e meno ancora dal lato del generale comandante conte Zichi. Stabilitosi da più di 20 anni in Lombardia, il conte Zichi aveva fatto proprie abitudini e lingua dei vinti. Si sapeva a Venezia come si era attuata questa singolare conversione. Una giovane popolana di Milano, bella della bellezza che già ispirò Leonardo e Luini, era stata notata dal conte, il quale, dopo averla corteggiata a lungo con gli stessi riguardi rispettosi che avrebbe prodigato a una dama, aveva finito con il portarla via ai genitori. Tale era stata l'origine di un legame che durava ormai da 20 anni e che rendeva l'Italia per il conte quasi una seconda patria. Le rivendicazioni del popolo dovevano essere presentate anzitutto al conte Palfi. 2 giorni dopo la liberazione di Manin e Tommaseo, la folla si addensò sotto le finestre del palazzo del governatore per chiedere la promessa costituzione. I rappresentanti del Consiglio Municipale e alcuni delegati del popolo salirono dal conte, altri capi popolari rimasero sulla piazza per dirigere e al bisogno contenere i movimenti della massa. Un segnale dal balcone avrebbe fatto sapere loro se si dovesse sperare o temere. Quegli uomini erano del resto gli stessi che avevano organizzato la resistenza legale e le loro richieste non avevano nulla di eccessivo. Volevano la Costituzione e la Guardia Civica, tali erano le parole d'ordine che essi lanciavano alla folla. Ma queste parole, bisogna pur dirlo, non potevano bastare in una città come Venezia a riscaldare l'animo popolare. Il popolo le ripeteva, un po' come si ripete una lezione, senza aggiungersi di suo un pensiero o un desiderio. Si sentiva una festa pubblica ed era pronto a gridare quello che si voleva. Appunto, allora i capi del moto pensarono di buttare qualche manciata di monetine in mezzo ai gruppi. Subito il grido "Viva la Costituzione! Viva la Guardia Civica!" risuonò da ogni parte. Le grida giunsero alle orecchie del governatore e un'altra deputazione entrò in casa sua e diede a intendere che il popolo non poteva più essere tenuto a bada. Il governatore, sconcertato, balbettò qualche vaga promessa. Non occorreva di più. Queste promesse furono presentate alla folla che circondava il palazzo come un formale assenso. Si gridò di nuovo: "Viva la Costituzione! Viva la Guardia Civica!" Il popolo gridò soprattutto: "Viva Manin! Viva Tomaseo!" I capi di questo moto, che assomigliava molto a una commedia, credevano di essere giunti all'epilogo. Non avevano più niente da chiedere e già si felicitavano per il successo dei loro sforzi, quando di colpo la scena, cominciata in modo quasi ameno, assunse un carattere più serio. Coloro che avevano pensato di condurre il popolo se ne videro superati. Il moto, che sembrava l'ultimo sforzo della resistenza legale, doveva sfociare in una grande sorpresa. La sommossa stava trasformandosi in rivoluzione. Il grido "Viva la Costituzione!" risuonava ancora, allorché all'improvviso una voce formidabile, e questa volta era davvero la voce del popolo, scagliò nell'aria questo grido inatteso: "Abbasso il governo!" Mille bocche lo ripeterono subito. Da quel momento l'atteggiamento sino allora spensierato e canzonatorio della folla fece posto a una cupa esaltazione. Il grido che si era appena sentito esprimeva tutte le passioni, risvegliava tutte le collere. Non si trattava più di qualche concessione illusoria, si trattava dell'indipendenza stessa. Cominciava e sceglieva per teatro Venezia, la grande lotta dell'Italia contro l'Austria, dell'oppresso contro l'oppressore. Una folla immensa e compatta occupava tutte le strade vicine al palazzo e dava persino la scalata ai pilastri delle procuratie, ripetendo all'unisono e sempre più minacciosa: "Abbasso il governo!" Costituzione, Guardia Civica erano dimenticate. I conduttori rimanevano sbigottiti di fronte a una manifestazione che non avevano previsto. Quanto al governatore, cercava invano di comprendere i motivi di quella improvvisa collera. Diventava però urgente prepararsi a resistere. Soldati croati scesero in silenzio la grande scalinata del palazzo e si schierarono sotto il portico davanti alla folla, che essi quasi toccavano con le loro baionette. Gli "Abbasso il governo!" raddoppiarono. Fu intimato alla folla di ritirarsi, non rispose che con nuovi clamori. Fu dato un ultimo avvertimento, poi i soldati fecero fuoco sul popolo, quasi a bruciapelo. Un momento di silenzio seguì la scarica. Non fu lungo e questa volta si alzò un grido di sollievo. Soltanto un uomo e tre ragazzi erano caduti, mentre 300 erano state le pallottole sparate da tiratori ben addestrati. Un fatto così strano non poteva mancare di agire potentemente sull'immaginazione dei veneziani. Si gridò al miracolo. Era proprio il giorno dell'esposizione della Madonna della Vittoria. Dio si dichiarava per Venezia. Il popolo non ne dubitava più e il suo slancio fu spinto fino all'eroismo. Ragazzini, fragili ragazzine, si misero a scalzare con le loro mani delicate le pesanti pietre che formavano il selciato della piazza. Quelle pietre erano le sole armi del popolo. Vennero lanciate sui croati. La seconda scarica non fece che esasperare la folla che, avventandosi sui soldati, li costrinse a ritirarsi nel palazzo. Dopo questo primo successo ci si disperse e presto la piazza restò vuota. Ci si era dispersi, ma per essere pronti a un nuovo combattimento. Scesa la notte, molte gondole si diressero verso il canale della Giudecca. Erano i capi popolari, spaventati dagli imprevisti sviluppi dell'insurrezione. Si erano dati convegno per consultarsi sulle nuove decisioni da prendere. Venuti da parti diverse, sbarcati sulla stessa plaga deserta, arrivati dopo differenti giri a una piccola casa, teatro consueto dei loro conciliaboli, quegli uomini sembravano recitare uno di quei drammi misteriosi di cui la vecchia Venezia era stata tanto spesso teatro. Non mancava nulla alla messa in scena, né i lunghi mantelli e i cappelli calati sulla fronte, né i mobili gotici, né la sala bassa semi-illuminata da una di quelle lampade bizzarramente decorate che si trovano soltanto a Venezia. Il programma del giorno dopo fu stabilito in quell'incontro e il risultato del colloquio fu che tutto sarebbe dipeso dall'arsenale. È quasi una città, in effetti, l'arsenale di Venezia. È una città inespugnabile. Nulla c'era più da temere se si riusciva a impadronirsene, tutto se il nemico vi si fosse trincerato. Qualcuno si era offerto di introdurvisi per saggiare la posizione degli operai e, essendo stato soddisfacente l'esito della ricognizione, si decise che l'indomani si sarebbe marciato sull'arsenale. Sin dal mattino una folla immensa, ligia alla consegna ricevuta dai capi, si era portata davanti a questo edificio. Le porte erano state sbarrate al suo arrivo, ma al grido "Abbasso il governo" si aprirono. L'arsenale era preso senza colpo ferire e il popolo vi fece irruzione. Questo facile trionfo purtroppo non gli bastava. L'arsenale era la residenza del colonnello Marinovic e già si è detto quanto fosse detestato il successore dell'arciduca Federico nel comando della Marina veneziana. Marinovic apprese con terrore l'invasione del suo ultimo rifugio. Non gli restava altra via di scampo che la fuga. Conoscendo tutti i giri di percorso, tutti i passaggi segreti della strana costruzione che Venezia chiama l'arsenale, il pallido e tremante ammiraglio si buttò in quel labirinto, cercando con angoscia vie d'uscita. Ma dappertutto le trovava sbarrate. Stava finalmente per raggiungere una porta quando un operaio lo riconobbe, l'afferrò per un braccio e, guardatolo in faccia, gli piantò nel ventre un arnese da fabbro che aveva in mano. La ferita era mortale, tuttavia Marinovic non cadde subito. Due suoi ufficiali riuscirono a trascinarlo con uno sforzo disperato verso una torre al sommo della quale speravano di trovare un rifugio inaccessibile. Ma là ancora il furore popolare li inseguì. Chiamati dall'uccisore di Marinovic, accorsero operai di fuori e arsenalotti e il rifugio dell'ammiraglio fu scoperto. Questa volta il popolo veneziano smentì la sua fama di mitezza e tutti gli odi che si erano addensati sulla testa dello sfortunato Marinovic ruppero in un'orribile esplosione. Gli scalini insanguinati lungo i quali Marinovic si era trascinato guidarono una torma furente fino al fuggitivo che i due ufficiali tentarono invano di difendere. Indebolito dalla perdita di sangue e dalla morte che si avvicinava, Marinovic fu strappato dalle braccia dei suoi amici, trascinato in fondo alla scala e poi nel cortile. I suoi uccisori si accorsero infine che avevano in loro mano soltanto un cadavere. Questa scena tragica mostrava anche troppo bene a quali eccessi poteva giungere il furore popolare, se capi coraggiosi non lo moderavano. Questi capi fortunatamente comparvero. Proprio quando l'assassinio di Marinovic era stato consumato, Manin entrava nell'arsenale. A dare il segnale di resistenza all'Austria era stato lui. Stava a lui arrestare il popolo su una china funesta. Alcune parole severe di Manin bastarono a ricondurre la folla che riempiva l'arsenale a sentimenti di moderazione e di giustizia. Un grido che non si era udito il giorno prima era appena risuonato e segnava un nuovo passo della rivoluzione veneziana. Era il grido "Viva la Repubblica!". La città intera ripeté questo grido e il dado fu tratto. Mentre 30 o 40 giovani si gettano in battello e vanno a prendere di sorpresa i forti, che si arrendono dopo un breve scambio di fucilate, il popolo si accalca davanti al palazzo del governatore ed esige che Palfi lasci la città. Il corpo municipale, gli uomini più influenti e gli amici supplicano il governatore di cedere alle richieste popolari e di non tentare la sorte delle armi. Le insistenze della stessa contessa Palfi si uniscono a quelle dei rappresentanti di Venezia. Dopo aver a lungo esitato, il conte infine risponde: "Non ho il diritto di fare quello che mi chiedete e non lo farò. Quello che mi è permesso è rimettermi ai poteri al comandante militare. A partire da questo momento gli cedo tutta la mia autorità. Rivolgetevi a lui". Subito la folla raggiunse il palazzo del generale Zichi e le stesse richieste furono rivolte a lui. Il generale conte Zichi restò un momento senza parola. Era in preda a una viva emozione, ma il suo volto aveva assunto un'espressione solenne e dolce che in anticipo rivelava quale sarebbe stata la sua risposta. Il ricordo degli anni felici, passati nella stessa Italia che attendeva ora dalla sua bocca un annuncio di pace o di guerra, questo ricordo sovrastava nell'animo del conte il richiamo del dovere militare. "Potrei", rispose ai deputati di Venezia pallidissimo e con voce rotta, "potrei lavare le vostre strade nel sangue, non lo farò. Mi chiedete di abbandonare Venezia e forse sottoscrivo la mia sentenza di morte. E sia. L'Italia ricordi che le ho pagato il mio debito di riconoscenza quando accomunerà nella sua maledizione tutti i soldati dell'Austria, eccettui il mio nome. Pochi istanti dopo, il generale firmava l'atto che allontanava le truppe austriache. Lo stesso giorno la Repubblica di Venezia era proclamata. Manin era il presidente, Tomaseo figurava tra i ministri. 2. Mentre Venezia vedeva gli austriaci ritirarsi alle sue prime ingiunzioni, la Lombardia riportava quasi nel medesimo tempo, ma a prezzo molto più caro, la stessa vittoria e si limitava a dar vita a un governo provvisorio. Si deve rimpiangere che Venezia abbia agito con minor cautela, ma ormai, nell'ardore della mischia, la parola Repubblica era stata pronunciata e l'effetto che aveva prodotto sul popolo non permetteva certo di adottare bruscamente un emblema di coesione diverso. Quale bandiera, d'altra parte, poteva parlare più energicamente all'immaginazione, alla memoria dei veneziani? Fu adottata, dunque. Si credette che l'essenziale fosse non privarsi dall'inizio della forza che si attingeva nell'esaltazione popolare. Si trascurò forse il fatto che quella concessione non poteva non complicare in modo grave i rapporti di Venezia con il resto dell'Italia. Per ben valutare la difficoltà del compito accettato da Manin e Tomaseo, bisogna rammentare quanto Venezia, sino alla vigilia degli eventi del marzo, fosse vissuta isolata dal resto dell'Italia. Posta al riparo da influenze straniere, Venezia, fino a quegli ultimi giorni, non aveva seguito il solco in cui procedevano le altre città italiane dal 1815. Non l'influenza straniera aveva provocato il moto liberale di Venezia. Quel moto si era sviluppato spontaneamente sullo stesso suolo dove un tempo aveva allignato la Repubblica di San Marco. Dal 1815 Venezia viveva interiormente una vita originale e profonda che si sarebbe dovuta presto o tardi sostituire alla vita fittizia stentatamente alimentata dall'Austria. Venezia viveva con gli occhi rivolti al suo passato piuttosto che all'Europa contemporanea. Gli uomini illuminati che marciavano alla testa dell'opposizione all'Austria erano i soli a levarsi al di sopra di questo patriottismo locale per considerare da un angolo visuale più ampio l'avvenire di Venezia. Ai loro occhi la libertà poteva esistere sotto forme diverse dalla Repubblica. Ai loro occhi il primo scopo da perseguire era l'abbattimento definitivo della dominazione straniera e il mezzo per raggiungere questo scopo era l'unione o l'unità delle varie province italiane in una sola alleanza, in un solo pensiero, in un interesse comune. Così tutto quello che poteva allentare quel legame, turbare quell'accordo, era quantomeno inopportuno e rischioso. Se era impossibile condurre in porto l'affrancamento del Veneto senza il soccorso dell'Italia tutta intera, l'impresa non poteva tuttavia neppure essere cominciata senza la partecipazione del popolo veneziano. Si trattava quindi per il governo di Venezia di conciliare due impulsi differenti e in certo modo opposti, di evitare, pronunciandosi per la Repubblica, anzi per la Repubblica di San Marco, di suscitare il malcontento degli stati italiani e lo scherno dell'Europa, di non rompere del tutto, e quel che più conta, troppo in fretta, con memorie profondamente dilette al popolo. Resta da domandarsi se gli uomini cui era affidato questo compito disagevole avessero l'abilità, la sagacia, la prudenza e la fermezza necessarie per assolverlo bene. L'avvocato Manin si trovava messo a capo del governo. Possedeva più che l'autorità inseparabile dal potere, l'influenza di un capo di parte. Alle qualità che impongono il rispetto non si univano in lui quelle che attirano la simpatia. La classe media a Venezia non ha né il tratto raffinato dell'aristocrazia, né l'eleganza naturale del popolo che essa ha perso nella vita tormentata degli affari. Questi difetti della classe media si ritrovavano in Manin, esagerati anzi da un umore ineguale. Il suo animo è forse un po' limitato. Il suo giudizio non valuta sempre con piena sicurezza l'importanza dei dati e degli eventi. Egli ha purtroppo anche quella sete di autorità senza controllo, quell'impazienza e quell'insofferenza per ogni opposizione che si impadroniscono di solito degli uomini pervenuti tardi e in modo inopinato a una posizione elevata. Una probità a tutta prova, un coraggio grande, una facilità d'eloquio tipicamente veneziana. un amore tanto sincero quanto ardente per la sua terra, per l'indipendenza e per la libertà, sono qualità che riscattano, è vero, molti difetti e che hanno fatto dell'avvocato Manini il capo naturale, direi quasi necessario, del governo repubblicano di Venezia.